Martedì 2 dicembre i giornali riportavano tra le altre due notizie di un certo interesse, almeno per chi avesse avuto la pazienza di metterle insieme. La prima consisteva nell'annuncio contenuto nelle pagine dei programmi televisivi che quella sera Rai 2 avrebbe trasmesso la prima parte del film televisivo su Don Milani. La seconda, variamente collocata nelle pagine della cronaca nazionale, ma di solito richiamata con uno strillo in prima, riguardava lo sgombero ad opera della forza pubblica del liceo Mamiani di Roma, occupato dagli studenti. Ora, permettetemi di prendere le due notizie per il loro valore, diciamo pure simbolico, senza entrare nel merito di quanto riferiscono. Io non ho visto quel film, ne ho visto i trailer e mi sono bastati, e non ho la minima idea delle motivazioni, delle circostanze in cui e per cui gli studenti di quel celebre liceo romano hanno occupato la loro scuola e ne sono poi stati sgomberati. Non credo che Don Milani a suo tempo avrebbe approvato la loro iniziativa, perché nella sua ostinata volontà eversiva, se ricordo bene, c'era anche molto di autoritario, c'era soprattutto una certa indifferenza per le questioni che non doveva affrontare lui in prima persona, per cui delle attività e dei problemi di studenti che suppongo appartengano in massima parte alla buona borghesia romana non poteva in definitiva fregargliene di meno. Ma è indubbio che il fatto che Don Milani sia celebrato, perché un film televisivo è la massima forma di celebrazione a cui la nostra cultura possa addivenire, è l'equivalente moderno del trionfo o dell'innalzamento agli altari, che Don Milani sia celebrato nello stesso giorno in cui la polizia sgombera una scuola ha un certo suo significato. Ai miei tempi le scuole si occupavano anche in nome di Don Milani, per esempio, che pure probabilmente non sarebbe stato d'accordo. I problemi che si volevano, se non risolvere, almeno mettere in evidenza con quei gesti, avevano molto in comune con quelli che lui aveva denunciato nella lettera a una professoressa. Un testo che sia pur variamente discutibile, io stesso ne avevo pubblicata una azzardata ma non del tutto irrispettosa parodia, aveva segnato comunque un passo fondamentale nella presa di coscienza di quanto schifo facesse 30 anni fa la nostra scuola e la società che la esprimeva. Poi sappiamo tutti com'è andata. Don Milani in vita è stato variamente vilipeso dalle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, è stato messo sotto processo, condannato di cuore per qualche accusa ridicola tipo vilipendio alle forze armate, poi è morto e, come succede a chi non può più dare fastidio, è stato sottoposto a un processo di beatificazione che in quel film di Rai 2 presumibilmente è culminato. Intanto i problemi della scuola restavano ostinatamente gli stessi, si incancrenivano su se stessi, mentre i governanti che si succedevano manifestavano tedragoni la volontà di lasciare tutto come stava. Magari le occupazioni non venivano più sgomberate di brutto, perché era più comodo e ragionevole lasciare che gli occupanti si stancassero e se ne andassero per conto loro, ma in caso di necessità la polizia poteva intervenire sempre, come negli anni in cui negli istituti occupati si faceva per obbligo un seminario sulla scuola di Barbiana. Il fatto che martedì scorso sia intervenuto al Mamiani sarà forse episodico e spiegabile con chissà quante circostanze eccezionali, ma resta un buon indizio di quanto poco siano cambiati in sostanza i metodi di affrontare certi problemi. Celebrare i morti e sgomberare i vivi non è una definizione cattiva della nostra cultura attuale. Sì, a proposito, c'è una postilla. Il giorno dopo, 3 dicembre, gli stessi giornali riportavano una terza notizia che, a rischio di sembrare riverente, mi permetterò di accomunare le prime due. Riguardava il seppellimento del mostro di Cicciano. Il turpe anziano pedofilo interrato in una tomba senza nome in una località sconosciuta e suppongo che vi avranno seminato sale e bruciato sopra lo zolfo. L'accostamento può sembrare in debito, ma c'è una certa barbara simmetria nel fatto che anche in questo caso un problema che nessuno aveva voluto affrontare quando era attuale, quando se non altro i suoi protagonisti erano vivi, e venisse in un certo modo risolto in via rituale, quando ormai sono tutti morti. Perché tanto la beatificazione quanto l'esorcismo, e il non funerale di Allocca rappresenta a tutti gli effetti una forma d'esorcismo, sono dei riti, sono delle attribuzioni postume di significato ad opera di chi spesso si illude con quelle di negare la propria precedente indifferenza. E sì, è vero che i riti non sono inutili a fine di organizzare l'umana convivenza, ma in certi casi, lo ammetterete, fanno andare un po' in bestia.